torna il primo caldo, la voglia dell'estate, torna il primo sole, la voglia dei tuoi occhi. Oh, oh, oh, oh. Giorno dopo giorno, per giorni, giorni e giorni, noi vivremo insieme la voglia dell'estate. Oh, oh, oh, oh. La notte poi, la notte poi, d'argento vivo il tuo viso sembrerà, negli occhi tuoi, negli occhi miei, fino a settembre la luna splenderà. Torna il primo caldo, la voglia dell'estate, torna il primo sole, la voglia dei tuoi occhi. Oh, poi, la notte poi, d'argento vivo il tuo viso sembrerà, negli occhi tuoi, negli occhi miei, fino a settembre la luna splenderà. Ah, ah, ah, ah, giorno dopo giorno, per giorni, giorni e giorni, noi vivremo insieme la